luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Quando noi sopportiamo questo significa dare il mangime all'Apsen e poter dire mangime? Che coercitivamente in Italia al popolo italiano possono fare i vaccini. E quindi? Quando Conte telefona a Bill Gates sulle nostre spalle, sulle sue spalle, prendendo 140 milioni, decide lo sa lei la cifra? Iniettarci lo sa lei. Il mercurio nelle nostre vene, certo, certo. Collegate ai 5G, senti la gente. E diventeremo dei piccoli robot. Oh, i robot. Se tu vuoi ammazzarmi, basta alzare la temperatura del mio corpo e io muoio. Pensavo di qualcun altro. Ti va così. Allora, davanti a questo, noi dobbiamo adirarci ed essere 80 volte più di quelli che siamo in questa piazza. Sì. D'accordo? Diffondete. Ma cosa? A chi? Meditate. Quando non abbiamo i soldi per andare all'università, giusto? E non abbiamo un popolo evoluto come vogliono loro, allora è possibile dire vi facciamo per forza il vaccino. Questo non può succedere in un paese acculturato. Respira. Dove la gente può studiare. Dobbiamo iniziare dalla scuola. Sì. È il grattatino un po' alla Guns N' Roses nel finale ha fatto, Non so se l'avete sentito. Ha fatto un po' Guns N' Roses. È vero. Sì, ha un talento da rocker, devo dire, sì. Perché aveva anche delle pause sceniche. Il mio corpo. La cosa preoccupante è che secondo me, cioè, queste persone come queste non dovrrebbero votare. Ecco, io la dico grossa, scusate, ve lo dico, ma persone persone che dicono queste Riccardo. Cose. Quindi lei, scusa, Riccardo, cioè nel senso, non dico lei, ma se persone che dicono quelle cose è lei, cioè nel senso, vuoi che lei non voti? Allora, scusate, non diciamo castronerie, tutti devono votare, dalla maggiore età in su, non rompete le balle, ok? E poi, scusa... No, se dici allora dalla maggiore età in su ti fermo subito, allora io voterei anche dai 16 anni. Vabbè, mettiamo dai 16, d'accordo, però tutti devono votare, non facciamo gli snob, per favore, ok? Sono delle opinioni sue che ha espresso liberamente in una piazza, buon fine. Tu credi a quello che ha detto? No, basta, no. Finito, perché devi fare sempre il sapientino, andare lì a rompere le balle a una che pensa che diventiamo dei robot? Diventeremo dei robot, va bene, accettiamolo. Come, qual era quel film dove c'è un braccio bionico e c'è Will Smith, non mi ricordo il titolo, cioè no, bellissimo, io vorrei sempre aver avuto quel braccio. Io Robot, dici? Il film con Will Smith, non mi ricordo, esatto, so che lui a un certo punto c'ha un braccio fortissimo, ho sempre voluto un braccio fortissimo. Ma è solo che per lei è un problema diventare dei robot, no? Sì, è vero. E poi mi colpisce un'altra cosa in realtà, cioè allora l'abbiamo attaccata per la questione dei 5G, del mercurio eccetera, va bene, però la cosa che mi colpisce è che di solito queste persone che hanno questa serie di complottismi all'interno della loro testa attaccano solitamente la figura dei professori delle università, no? C'è sempre quella degli accademici, capito, i professoroni la sanno sempre loro la storia, in realtà la sappiamo noi sappiamo la verità. Invece la cosa che mi colpisce, che è diversa rispetto al solito, è che la signora difende il sistema universitario, cioè gli dice ci vorrebbe più università, ci vorrebbe più scuola. Lei ad esempio vorrebbe un corso accademico sugli effetti del 5G sui robot, evidentemente, no? Sì, secondo me lei ha sofferto di questa cosa qua, di questo complesso. Cioè lei dice quando non abbiamo i soldi per andare all'università è una richiesta d'aiuto. Cioè lei dice io avrei voluto, cioè no? Oddio, poi magari la signora è laureata. No, ma il problema secondo me è che anche gente come queste persone qua andasse all'università, secondo me non capirebbe, anzi griderebbe il complotto. Cioè i docenti ci stanno inoculando, cioè, concetti. Sono seduti tutti in sala, il professore a un certo punto fa la sua lezione, lei si alza e dice la sua. Sì, no, è tipo, non so, guardate signori, i vaccini servono per difenderci dalla malattia. Lei secondo me metterebbe in dubbio questa cosa, ipotizzo. Quindi anche l'università forse... Direbbe sicuramente che i docenti sono pagati da Bill Gates. Può essere. Ma non è, scusate ragazzi, che la signora in quel pezzo si stia riferendo alla famosissima università della vita? Ma forse sai che perché noi stiamo forse sbagliando proprio il tema della puntata, capito? Secondo me il tema della puntata, il luogo comune che dovremmo affrontare oggi, non è tanto l'università quanto l'università della vita. Certo, cambia tutto però effettivamente. La famosa dicitura che è apparsa sui social, specialmente su Facebook qualche anno fa, che nel campo istruzione alcune persone hanno cominciato a scrivere laureato all'università della vita, un'espressione che ovviamente manda ai matti, siamo d'accordo? Certo, come anche la richiesta di orientamento religioso o di orientamento sessuale che è nato sostanzialmente con Facebook. Credo che tra l'altro questa formula, che ormai è da una decina d'anni che circola sui social, sia stata coniata proprio a causa di Facebook. Cioè prima non è che uno ti chiedeva: ciao, sei laureato all'università? Cioè no, era una cosa un'informazione che anche chi perché, se ne frega. Scusami Riccardo, se tu rispondevi sì, sono laureato all'università della vita, con molta probabilità arrivava il tuo interlocutore, esatto, arrivava una bella ambulanza, ti prendeva e ti portava via. Quindi sostanzialmente la signora non ha tutti i torti, perché alla fine è colpa di Facebook, è colpa di Zuckerberg, è colpa di cioè tu Soros, mi vuoi dire di, tu mi vuoi dire che è proprio la richiesta di Facebook del completare un campo che portava ansia nell'utente e dicevo: oddio, io non sono laureato e che faccio, che devo scrivere? Vabbè, scrivo che sono, che ho imparato quello che so, intanto scusa, intanto impiegato presso me stesso, chiaro. Certo, sì, è vero, è vero, hai ragione, scusami, stavamo dimenticando un altro luogo comune fondamentalmente legato a questo, ovvero freelance presso me stesso. Anche il CEO di me stesso mi fa volare altissimo. Però laureato all'università della vita. Ma è stato il primo della classe, un ignorante fuori classe, prego Dio da queste casse, come se m'ascoltasse. Benedici questi sognatori senza un euro in tasca wifi. Quando ti svegli e non pensi ai soldi, vuole dire che li fai più dalla SNAI. È questione di etica, questi che pensano solo all'estetica. Qui non ci sono punizioni per chi sbaglia, non ci sono premi per chi merita. Il talento è un carcere a vita, una bella tipa, sì ma senza la fica. In pista in Italia dove nascono figli già vecchi col padre l'antica. E allora sfiga, trova ciò che ami e lascia che ti uccida. Domani vai sicuro come sempre. A scuola se ti chiedono il futuro dov'è, digli presente. Volevo fare il batterista. Allora, per parlare di questo luogo comune con noi oggi off topic c'è Massimiliano Parente, scrittore, tra l'altro aveva appena lanciato su YouTube una rubrica Libri di Merda bellissimi su cui ci si fa un sacco di risate. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ascolta, tu scriveresti mai, sei iscritto all'Università della Vita sul tuo profilo Facebook? No, mai, mai, mi fa orrore solo pensare all'idea proprio. Già mi fa orrore tutta la retorica della vita proprio. Io già quando avevo 16 anni odiavo tutti quelli che ti dicevano ti parlo per esperienza. Ti parlo per esperienza, capito, perché è successo a me, perché che cosa che ti insegnano poi anche quando studi storia all'università, tu non basta l'esperienza di uno, quello che ti dice io ho vissuto questa cosa qui, sì, ma poi se tu la studi magari vedi che per capirla la devi studiare, quindi proprio l'università della vita proprio no. Qual è il profilo, secondo te, delle persone che scrivono questa frase qua sui social? Ma io, secondo me, c'è una sorta di rivincita dell'ignoranza. C'è una rivincita dell'ignoranza che alla fine è nata, dicevate giustamente voi prima, grazie ai social, perché i social hanno dato la parola a chiunque. E chiunque si sente appunto laureato all'università della vita e grazie a internet, per cui nessuno più distingue una fonte da un'altra, fanno tutti cherry picking, cioè prendono gli argomenti un po' quelli che gli fanno comodo per confermare il loro pensiero, come la signora che avete mandato in onda prima sicuramente va su internet e trova tante conferme al suo pensiero. Trova delle conferme che non valgono niente, però è nata sui social, poi ha trovato in Italia politicamente un appoggio di un movimento che è stato quello dei 5 Stelle, che ha portato a un certo tipo di populismo qualunquismo che poi ha portato anche la Lega su quelle posizioni lì, quindi secondo me l'Italia è proprio il paese dove l'università della vita ha senso, perché tant'è vero che c'è la famosa da anni fuga dei cervelli, uno qui in Italia non riesce a fare niente, devi andare fuori, no? Se tu studi ti guardano male, perché dici, ma che tu studi? Quindi abbiamo tutte le migliori università, pure quella della vita, stai dicendo. Sì, sì, abbiamo le migliori, sì, sì, sì, sì, no. È vero. Io poi sono d'accordo invece con, nel, secondo me il suffragio universale dovrebbe essere superato. Oh. Addirittura, anche tu sei così radicale, no? Io tenderei a difenderlo, ma più che altro a aumentare la, come dire, gli investimenti nell'istruzione, così da portare le persone nell'età della ragione, persa, con un bagaglio di battaglia persa. No, ma io sì, sono anch'io sono d'accordo che è una battaglia persa, però poi penso so, anche che se tu vuoi votare, ma non solo se vuoi votare, ma anche se vuoi essere eletto. Cioè, guardiamola da tutti e due punti di vista, non solo per votare, ma anche per essere eletti. Così come prendo la patente per guidare, devo conoscere le regole della strada, eccetera, se voglio votare devo sapere qualche cosina, insomma, di se no sì, cosa voto su questo, a fare. Su questo Riccardo Poli ha sempre lanciato una bella idea, che è quella del patentino del cittadino. Cioè, tu puoi votare appunto, sì, se hai un determinato numero di punti, se, correggimi se sbaglio. Cioè, se io mi comporto bene, corretto, pago corretto le tasse, faccio la raccolta differenziata... Ma ho condiviso un video di gattini, mi togli un punto? No, sì, esatto, funziona? Certo, se condividi, certo, se certo, scrivi buongiornissimo caffè, ti togliamo dei punti. Ok. Se lo scrivi poi con la K, tipo, per me puoi anche non presentarti alle liste elettorali. Cioè, buongiornissimo potrebbe essere una soluzione, no? Ma voi vi ricordate anche i video dei tanti politici che erano già meglio di quelli di oggi, però erano tanti politici che uscivano dal Parlamento, dal Senato, e a cui Striscia la Notizia, le Iene, faceva delle domande come quando è caduto il muro di Berlino, sì, non sapevano neanche, dicevano sì, il 1700, sì, cioè voglio dire, questi qui come possono stare in Parlamento? No? Sì, che te li aspetti, Massimiliano, nelle domande che faceva il milanese imbruttito tipo nelle discoteche, però sei fatto come una mina, hai bevuto un sacco, cioè, lì ci sono ragazzetti sì, di 16 anni, è chiaro che la sbagli. Fuori da Montecitorio fa un effetto un po' più... disarmante, diciamo. Massimiliano, scusami, tu prima hai parlato appunto della rivincita dell'ignoranza, ma secondo te c'è stata la rivincita dell'ignoranza perché c'è stato un fallimento della conoscenza? Io penso che... Cioè, i docenti hanno sbagliato qualcosa? Cioè... No, secondo me non è un fatto proprio di docenti, è proprio un fatto che l'ignoranza... Cioè, nel momento in cui la predisposizione... Noi chiamiamo la nostra specie Homo sapiens... Ma se voi ci pensate, il progresso che stiamo vivendo adesso, cioè anche noi che ci stiamo parlando qui, ma l'uomo sulla luna, ma l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione, la biologia molecolare, tutto quello che sappiamo della nostra specie, eccetera, è frutto di uno 0,1%, il resto delle persone sono una massa di deficienti. Ma quindi, nel senso che la specie umana fatta da... Scusate, ma voi è facile prendersela con una signora come prima che dice, no? Che sì, cosa, insomma, tutte quelle cacchiate che diceva, oppure con i Novax. I terapeutisti. Però nessuno se la prende, per esempio, con quelli che credono che il mondo sia stato creato da un signore invisibile che sta nel cielo e vanno e affollano dei luoghi dove avviene l'Eucaristia. Questa cosa qui non si può dire. Ragazzi, se ci sono quelli, ci saranno pure i Novax. Non vedo la differenza. Su questo, guarda, io ormai mi sono iscritto al partito di Massimiliano Parente. Se fondi un movimento qualsiasi cosa, io mi iscrivo, ragazzi. Comunque, scusami, la cosa che mi colpisce però di questa modalità è perché lo devi scrivere, cioè perché lo devi dire, perché ti senti in dovere di comunicare il fatto che sei iscritto a questa cosa fittizia, per cui cos'è? Senso di inferiorità? È la rivincita, io penso che sia la rivincita dell'ignoranza, è la rivincita dell'ignoranza. Guardate, ma guardate anche tutte le polemiche che ci sono, per esempio, ultimamente sui virologi, su chi ti, cioè, dici, ma tu chi? Io sono una mamma, so io che cosa fare per mio figlio. Per mio figlio, e quella è l'università della vita, è la rivincita. Io però vorrei vedere se uno che è iscritto all'università della vita poi ha bisogno di un chirurgo e deve andare in ospedale, se ne prende uno iscritto all'università della vita, magari non lo mandiamo credo in Parlamento, magari lo mandiamo in Parlamento, lo manderebbe in Parlamento. Nel mondo della giustizia di Riccardo Poli, uno arriva in ospedale e trova uno, un medico dell'università della guarda, vita. Guarda, ti dico solo se questo, Beppe, che vita, io alle superiori ho fatto una lista di compagni di scuola che non studiavano assolutamente una mazza, perché ho detto, se questi qua poco poco mi diventano medici, avvocati o ingegneri di costruzioni, io non ci vado neanche vicino. Cioè, io so già, ho una mia blacklist di persone da cui se mi spacco un piede, questo è diventato ortopedico, io non ci vado da lui, non ci vado. Allora, parlando di scuola, vi propongo un gioco tutti insieme, sì, anche con Max. Allora, proviamo. Io ho provato a scriverne un po' ieri, a buttare giù delle specializzazioni, cioè dei corsi che si dovrebbero fare all'interno dell'università della vita di Off Topic. Le materie. Mm. Le materie da studiare. Allora, io ve ne butto lì tre o quattro, poi proseguite voi. Sì. Allora, io ho pensato, sicuramente in testa a tutto sta la briscola. Mm. Poi c'è un corso di sputi, perché secondo me devi saper sputare per essere, come dire... Ma puoi anche lo sputare, però, non è molto bello sputare. Vabbè, però l'università della vita... Ti fa... Non lo so. Vabbè, l'università della vita, è vero, avete ragione. Un po' tipo calciatore, cioè sai che ogni calciatore sputa un po' a modo suo. Ci sono anche vari modi di sputare, addirittura ho scoperto. Questa non starei qui però a delencare le modalità. Poi c'è il fischio alla pecoraia, cioè devi saper fischiare alla pecoraia, cioè nella vita ti può servire di fischiare, magari se ti perdi in montagna non c'hai un fischietto perché non c'hai lo zaino col fischietto, per esempio ti può servire. Sì, può poi c'è il classico corso di complottismo con un seminario sull'evidenza dei fatti che ti insegna a dire beh è evidente che è così, è così, è evidente che è così, è così, e beh, proseguendo su questa cosa e interverrà anche un professore americano che si chiama Meditate People Meditate. Che è questo bello personaggio americano. Dottor Meditate, fantastico. Prego ragazzi, datemi delle materie. Ma allora, voglio essere un po' più ottimista, un po' più buono. Potrebbe essere anche un corso di come disporre le cose che compri al supermercato. Perché effettivamente ogni volta che vado a fare la spesa... Ma che università è, scusa? Beh, le cose pratiche della vita. Fai una borsa della spesa, dell'Esselunga, no? E devi mettere in fondo le cose rigide e sopra le uova e le verdure, no? Io per impararlo ci ho messo un po' di tempo. Sai quanti pasticci che facevo nella borsa? Uova. Disastro, sì. Io farei un corso di palleggio, perché siccome te lo chiedono sempre, ah che bello, sì, facciamo una partitella. Io non so assolutamente giocare a calcio, certo. Farei un corso di palleggio almeno per far vedere due o tre calcetti. Max? Ma io farei un corso di, l'ho letto su internet. Ottimo, che stupidi. Fare un corso di anche un corso di non ce lo dicono i media, non ce lo dicono secondo i me media non ce lo dicono, e poi anche un corso per di che la natura è bella e buona e di mangiare solo le cose naturali. Perché questo qui, il culto della natura è sempre questo, cioè il cibo naturale, la cosa naturale, deve essere tutto naturale, no? Oppure dall'altro lato, Max, questo non si fa perché è contro natura, non sapendo che in realtà la natura è orribile, fa delle cose tremende. Esatto. Minchia, natura è orribile. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. And don't try and dig what we all say. A big sensation. Allora, ragazzuoli, ieri facendo un giro su Facebook sono capitato su una pagina di un soggetto, giro di un personaggio. Facebook, già, un giro su Facebook, giro come su mia Facebook. Nonna, come mia nonna, che ha scritto su Facebook, ha studiato presso quella della strada, cioè neanche mettere università della strada, no, quella della strada. Non è vero. Magari è una signora. No, dalla tipa della strada, cioè lui ha incontrato una che gli ha detto delle cose e lui ha imparato tutto da quel dialogo. Tipo esatto, Platone, perché c'è una grande differenza, Beppe, tra l'università della vita e l'università della strada, perché secondo me ha molto più dignità l'università della strada. La sai qual è la differenza tra quella della vita e quella della strada? Le sberle. Dici che in strada volano schiaffi se dici una cazzata. Esatto, quella della strada volano gli schiaffi. Secondo te, Max, qual è la differenza? Vabbè, secondo me quella della strada è più popolare, no? Perché proprio, cioè, è la vita, perché l'università della vita, che ne so, anche Berlusconi, no? Può aver studiato l'università della vita. Invece della strada proprio sei proprio... C'è il culto della tra l'altro, strada. Scusate, volevo tornare su questa cosa, perché vorrei essere chiaro su questa cosa. Io personalmente non stiamo criticando, non stiamo prendendo in giro chi non ha studiato, cioè ci mancherebbe altro. è assolutamente legittimo non andare a studiare. Uno fa altro, lavora, sta appunto, sta in mezzo alla strada, fa un altro lavoro, fa il panettiere, fa qualsiasi cosa, va benissimo tutto. La cosa che ci colpisce di questo luogo comune è il fatto di dichiararlo. Certo. È questa, diciamo, il ma non la virgola, solo, non no? solo dichiararlo, ma quante volte vi capita di sentire qualcuno che ti dice: io non me ne intendo di questo argomento, ecco, ma bravo. E ti dice cosa pensa. Se non te ne intendi, stai zitto. È quello il meccanismo zitto, che stiamo discutendo oggi, senza ombra di dubbio. Cioè, io posso parlare con un contadino sardo che non ha mai visto un libro, ma sarà di un'umanità incredibile, da cui io posso assorbire delle cose stupende. Bravissimo. O viceversa, parlare con un docente universitario e parlare con un cretino, sostanzialmente. Sì, sì. Quindi, sì, assolutamente. Non si discute assolutamente. Assolutamente. Senti Max, ma secondo te quali sono i professori dell'università della strada? Perché un po' a me sono venuti in mente tra clochard, netturbini, spacciatori, prostitute. Però potrebbero essere veramente questi docenti, no, ragazzi, della strada. C'è una categoria, almeno qui a Roma, non so da voi a Milano, la categoria sono i tassisti. Voi prendete un taxi, no? E cioè non potete neanche fare una telefonata, eccetera, lui vi spiega tutto. Tutto, su qualunque argomento, ti dice le sue opinioni su tutto, perché cosa c'è? Cioè, tu vedete, un tassista dovrebbe risolvere tutti i problemi del mondo. Qualsiasi tassista, sì. Secondo me, i docenti sono i tassisti proprio. Beh, sanno tutto, osservano tutto, conoscono ma tutto, perché, sono degli archivi. A me è capitato una volta che c'era questo tassista che mi raccontava una storia, perché prima gli era salito questo personaggio del cinema. Hai capito. E quindi è andata quasi a finire che lui aveva fatto un po' cinema tra un po', capito? Cioè, ragazzi, a pensarci bene, i tassisti sono Google, prima di Google. Sì, portano in giro tutto, cioè, porti in giro un professore, sai qualcosa di matematica. Senti Max, invece sulle prostitute cosa mi dici? Sono delle insegnanti di vita? Beh, io sono un fan delle prostitute, quindi nel senso che mi piacciono le prostitute, cioè sono utili. Io adesso le ho sostituite praticamente con YouPorn, perché sono pigro anche per quello, però cioè le prostitute sono secondo me un esempio di umanità e di università della vita più realistico, perché sono puttane e guadagnano facendo le puttane, ma lo dicono di essere puttane, mentre invece tutti gli altri sono puttane ma mascherate da non puttane. Cioè, voi accendete la televisione, veramente accendete la televisione e vedete che sono tutti puttane, tutti perché voi vedete che ognuno che vedete invitato in un contesto eccetera porta avanti una parte ideologica, politica, eccetera. Ma non capita, per esempio, avete visto come hanno gestito adesso la cosa del virus? Avete mai sentito uno di destra che critica uno di destra? Allora, ci sono quelli che criticano Milano perché è solo di destra e Milano amministrata dalla sinistra, quegli altri criticano la regione perché è amministrata dalla destra, perché, eccetera. Ma allora, certo, su cose che dovrebbero essere scientifiche, non è che dovrebbero esserci tutte queste divisioni. L'opinione non è richiesta, diciamo. Perché sono tutti puttane? Perché devono portare fuori l'acqua al proprio mulino, è verissimo. Sì, diciamo che è una grande messa in scena, ognuno ha la sua parte, deve recitare un po' il suo copione e si crea il conflitto, così la gente sta a guardare, passa delle ore davanti allo schermo, pensa di aver capito come funzionano i dati e le notizie, in realtà rimane solo che più confuso. Invece. Questa è la mia... E quindi viva le puttane vere! Viva quelle che almeno vere. Te lo dicono. Esatto. E dici, vabbè. Comunque, ricordiamo tra l'altro che questa settimana qua sono stati i 50 anni del pezzo di Tom Wolfe sul termine radical chic, che è nato proprio con lui. Questo perché un pochino l'università della vita ce l'ha con i salottari, con quelli che invece non si sporcano le mani scendendo in strada, appunto, e vengono definiti, ahimè, ancora oggi radical chic. Quindi insomma, ricordiamo questo piccolo anniversario. Massimiliano, ti ringraziamo per essere stato con noi e non so, Beppe, tu volevi fare un'ultima domanda a Max? No, credo di essere a posto. Ah, ok. Grazie. Vabbè, grazie dottore. Questa trasmissione purtroppo non abbiamo fatto un conflitto, cioè la cosa che mi viene da dire è che la trasmissione nostra forse non funziona per questo motivo, perché non litighiamo, vedi? Dovremmo un po' imparare da questa cosa. Beppe, vaffanculo. Ma no, vaffanculo tu. Ecco. Ma chiudi chiudete sto stronzo, chiudete sto stronzo. Ah, va bene. Vergogna. Capra. Ci vogliono tutti schiavi. Allora, vi ricordiamo i nostri contatti su Facebook. Sì, ragazzi, fatemi fare a me questo momento bellissimo. Sapete dopo che aver io... detto che l'università della vita, degli strumenti social, ora glieli vendiamo. Esatto, critichiamo i social e poi glieli vendiamo. Fatemi fare questo momento Giorgio Mastrota, a cui tengo moltissimo. Innanzitutto potete riascoltare tutte le nostre puntate. Noi siamo il programma dei luoghi comuni, abbiamo fatto tanti luoghi comuni, li potete trovare su tutte le piattaforme podcast, quelle che usate, Spotify, iTunes, Google Podcast, vi cercate e avete tutte le nostre puntate con vari ospiti, eccetera. Siamo su Instagram, offtopic24, seguiteci lì e rimanete aggiornati su tutto. Anche perché facciamo i sondaggioni, su Instagram. Quindi. È vero, ci sono i nostri amabili sondaggioni, poi c'è... E a volte mettiamo anche le foto con i cagnolini di Riccardo. Basta! Sì. Li mettiamo anche noi, vedi? Poi abbiamo un canale Twitch che si chiama Off Topic 24. Twitch è una piattaforma che permette delle video live in streaming e siamo live il lunedì e il giovedì sera dalle 22 a mezzanotte. Commentiamo le notizie del giorno anche grazie ai vostri spunti e alle vostre proposte. Dopodiché, per chi di voi avesse Telegram, potete iscrivervi al nostro gruppo che è Off Topic Radio 24, è una chat libera aperta nella quale condividiamo spunti su quello che accade attorno a noi. E io chiuderei citando il maestro Parente, faccio questa citazione, che su Facebook ha scritto: giustamente si preoccupano tutti per la privacy, hai visto mai che qualcuno scoprisse che hanno le stesse vite tristi che postano sui social? Ciao! Ciao! Ciao! Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.